sai di chi. Lascia stare quello già, un toccando un sana. Puntella non tocca, se l'altro mettilo la soprammobile. Ah no, ma lo devo guardare, l'altro va benissimo, mi hanno sempre detto che la rabbia è bellissima. Devo solo controllare, magari c'è qualche cosa nello slider, magari polvere o roba del genere, gli do una soffiata con l'aria e poi gli metto un po' di spray, vediamo un pochettino se cambia la musica. Guarda già, è tanti anni che ci ho sentito in radio, non ti ho mai sentito così forte di radio, la verità si dica. Cava cava, questo qua è il Turner, Però questo qua c'è una cosa, se lo metti a fianco al baracchino ti fa alternata, lo devi tenere in mano. Guarda, te lo faccio vedere, te lo faccio sentire. Marco, sei ancora qua? Ehi, dammi un canale. 27, non fai al 20, dai, non è il canale 20. Ehi, Daniele. Dimmi già. Guarda se c'è alternata adesso. Stai zitto. Una cosa leggerissima, come se... Se non lo dice non ci faccio neanche il caso, mi deve essere proprio zitto e muto per sentirsi. Se non diceva qualche tipo ventolina a fianco, però non è così tanto fastidioso. E questo deve essere questione di massa. Deve essere una questione di massa, mi viene. Stai uscendo. Cosa? Stai uscendo ultimamente. Ma sicuramente come non lo stanno toccando bene. Io ho premuto male anche tu. Adesso usi il lock, così almeno non c'è problema, lo premo bene. E poi così. Vabbè, questo qua è un super microfono, è un super sidekick. Questo non se ne acciappa più. Io l'ho tutto restaurato, questo microfono l'ho fatto nuovo. Ma forse è l'unico che funzionava di tutti. Cioè, anche gli altri funzionavano bene, ma questo funziona bene tutto. No, ma l'altro tu è una fesseria sicuramente, è da aprire e controllare a vedere cosa c'ha, magari un granello di polvere che rompe le scatole, capito? Perché è sempre andato bene l'altro microfono, ci vuole una bomba. Sicuramente l'ha pigliato la barometra. La batteria controllata, dai. La batteria è nuova, l'ho cambiati tutti e due, ho cambiati tutti e due i microfoni, sia in questo che nell'altro, capito? Per non sbagliare. Ogni tanto. Vabbè, capita a tutti, dai. Capita a tutti. Già lo controllo, io non ho problema. Tu chi so? Che faccio io, due volte la posso mandare a farle, adesso forse me l'hanno fatto bene adesso, a mettere le connessioni del microfono a posto, la prima volta non è andato bene, mi ci sono rovinate, una seconda volta me l'ha fatto una persona, me l'ha fatto bene, allora non date più problemi a radio. C'è tanti anni che insomma è una bomba, va benissimo. Quelli, ma tu quelli lo stai virando, no? Lo sto vendendo, mamma con quel sogno. Cara. Ma mi sembrava di aver capito diversamente. No, questo non è nuovo. Uno dei primi che ha cominciato a rimodulare, che l'avevo comprato di 10 anni fa, forse anche di più. Su che vive a Milano, sai chi siamo in Brudoglio, come si chiama? Ma che fine hanno fatto quelle? Io non ho la sintesi, mi intuente, come si chiamava quelle sintola che ordinavamo tutta la roba? Tecnocomunicazione, quello stai dicendo. Sì, ma che fine ha fatto quello lì? Guarda, 1, 2, 3, prova. Sì, ora sì. Cosa mi stavi dicendo? Che so che si sono separati, lui era praticamente il tecnico, aveva la riparazione dei cavi, faceva degli apparati radioamatoriali, CB eccetera eccetera. Poi si è separato, si è andato da un'altra parte e lei ci ha tenuto il negozio, ma lui era in gamba. Ti diceva, perché apparato ti serve questo microfono? Per dire, l'anno 48, ma te lo mando già con l'attacco fatto, te lo faccio io. Capito? Ti faceva l'attacco gratis. Sì, me lo ricordo, vendevano anche parecchio, vendevano. Soprattutto qua in Sardegna. Di clienti, ricordo. 747, i primi li abbiamo presi da lui, l'avevo preso io, primo 747, poi ce l'aveva preso tuo padre, e poi hanno cominciato tutti a comprarsela, che prima non ne conosceva nessuno. Sì, non lo so se è questo che ho io qua, capito? Non lo so, comunque tuo padre è stato il secondo, io l'ho preso per primo, lui l'ha preso per secondo perché ha visto che andava bene a me e ce l'ha preso anche lui, poi ce l'hanno preso tutti a rotazione. Sì, sì, mi ricordo. È un peccato, andavano, si vendevano, erano anche uniti, erano. Sì, poi ci potevi parlare con lui, io gli avevo comprato il 140, adesso me l'ha mandato nuovo, mi ha detto guarda io gli ho ritirato alla fiera, ne ho uno nuovo se ti interessa, adesso lo controllo tutto prima di spedirtelo, lo allineo, poi mi ha telefonato e mi ha detto non c'è nulla da allineare, è perfetto, guarda, l'unica cosa che c'è è il microfono, l'MC60 che è un po' consumato, non è graffiato ma consumato, quindi non te lo mando nemmeno perché so che tu sei pignolo, se lo vuoi il nuovo costa 175 euro. La mappa non ne fare, già gli avrei detto io, portami quello, portami. Io invece ho detto di mandarmelo a nuovo perché sono pignolo, non mi piace la roba consumata. Ah, mia madre rivenga che l'abbia posto un pocaretto di cosa e me l'abbia conto io. Cioè se funziona perché lo buttare via, cioè. Io ho preso quello lì, ma andava, è una meraviglia, poi l'avevo venduto a Marco Condor, poi Marco l'ha venduto a Merito, poi non so che fila ha fatto. Gianni, ho anche io, voi acqua ne avete? Acqua. Davvero non fa fede perché c'ho la cisterna, io ho capito, quindi ce l'ho sempre, sino a quando finisce con la cisterna ce l'ho sempre. Cioè che doveva mancare, mi hanno detto. Ciao, basta un secondo. Allora, via Nizza, via Le Mameli, siamo senza acqua. Dopo è quello di Cassara, ve lo dico, vedi. Niente guacca. Levate la monipagata però. Abbiamo parlato in due intorno. Allora, via Nizza e via Le Mameli, siamo senza acqua. Marco, con questo bene vado? Sublime già, come ti ha detto Daniele, un bijou, bianco per me. Da che ora è? Perché io quando sono andato a casa c'era l'acqua. E boh, Anto, a me è sorpresa, noi non sapevamo niente, ma stamattina è sparita l'acqua. Ho dovuto usare salviette, cioè come per i neonati, capito? Pulendo una salviette a borottato. E dovrebbe tornare alle 7:30 di sera, 7:30, 8, così hanno detto, voi c'è il corridoio, vabbè, una rottura di scatola comunque. Ma un autoclave non ne avete, ma... Come è provvista così, e ce l'ho fatto un minerale, ti avrei balle con ghisa. Io ce l'ho l'acqua e c'ho anche quella per bere, due casse. No, già, autoclave no, meglio. Sì, c'erano in origine i serbatoi con l'autoclave, però nonno non si era mai allacciato al serbatoio che era a sua disposizione e poi qualche condomino se n'è impossessato, quindi c'è chi ne ha due, capito? Di serbatoi dell'acqua, pazienza, andava fatto per tempo, cioè 60 anni fa andava fatto. Bianco per me, non mi chiamate. Vai, tranquillo. Magava. Quindi avete dovuto abbassare la potenza. Un po' sì, perché sennò è un casino. E tu la cosa, del computer, ero un mouse, pure non andava più. Logo? Allora, se lo guarda, se lo può fare la non mi si manda in paese. No, no, basta così, già basta. Ma no, mai sto facendo più bene nel radio, poco fa di più basso. Forse ero basso io, come microfoni ero abbassato. E niente, ma forse perché attaccato. No, se vado più di quel tanto mi si blocca la cosa del computer, ma... Stavo leggendo su internet e dice che non siamo i soli. Che cosa? Non avrà? No. Non siamo i soli che succedono questi problemi col computer. Ah, vabbè, se puoi evitare, evita. Già, è un po' di alternata, già. Leggera, leggera, ma c'è. Non lo posso accendere, ma sono tengo basso. Che già lo so, Natalino, devo fare un cavo per scaricare, perché sicuramente è una questione di massa, se lo prendo in mano non lo fa più. E allora metti un cavo di massa all'apparecchio. Sono del 100%. Già, fatti una cosa rara, praticamente ogni volta che premio la portante lo gozo. Cioè, cosa è, cosa no è, poi l'abbiamo siamo andati sul coso, su quel sito Roger, l'abbiamo letto che a molti gliel'ha fatto, a molti civili ha fatto, che praticamente andare a chi c'ha la portanza si disconnetti a tutto. Scusa Nazzarino, cosa ha combinato la USA, che mi stava descrivendo la tipa che stava aprendo la serranda e lei era già al computer, caso lui era fuori e ha inteso tutto. Poi alla minigona ci vediamo tutti i puntati, e chi ti ha inteso tutto? Ti lamenti Nazzarino? E allora, tutto per il zoma celeste li ho visto. Pensavo il cazzo del computer l'ha sentito. E allora, e darà inteso. E allora sai chi è? Chiara, quella del capo. Ah, Chiara, ho capito. Anche io mi servo lì, di fronte a Rai Neri lì. C'aveva il cazzo, ce l'aveva in via Nurra prima e io ero vicino al mio dottore, ero capito, perché il mio dottore c'aveva lo studio lì vicino al cazzo e praticamente io ero posteggiato lì e lei ha sentito tutto e ce l'aveva detto, guardi che l'ho sentito, che cosa ha detto, già figura. Mia figura di cacca. Vabbè, non le voglio dire direttamente, sono belline. Ed io la giudico così, infatti, veramente belle, però è più bella la padrona, gli ho detto. Una volta non me ne, quando quella via mi trattava la moto, non me ne ci giochi di Teorico, di gente che ti faceva la palestrana. Dottore, bene sono andato. Ti sei troppo bene, dai che si è fatta a Ruglia, no? No, già, si è fatta a Ruglia. C'è... La volta te lo dipende, la volta. Ne esci tu, quando ci avevamo in motocarro, te lo ricordi? Ne esci tu, chi su Teorico, di Zinghetto, che ripartia, il corso dell'altro, ripartia delle cose strane. A tu? Sì. Ma lo sai che quello di Gabbaldella ha chiuso? Sì, l'ha preso Giuseppe, l'ha preso. L'ha preso, sì. E il figlio sta per il negozio sotto casa, il negozio di vini. Oh, ha distrutto un bovarino. Stai dicendo a Masia, a Piero, era distrutto un bovarino, cara. E poi anche grande, già. Ha fatto bene, ha mollato tutto, cosa ne fai? Detto, quanti anni c'ha tu? Non è che sia così grande, no? Sì, avrà 64 anni. Oh, dice che sono andato in pensione. Perché ha lavorato, gli danno perché ha lavorato da giovane. Ah, ecco. E magari portando le bombole non è uno scherzo, no? Il duro di chi va, iui. Allora lui praticamente è andato in pensione perché si è fatto i contributi. tutti da candela giovano e quindi gli hanno latta, capito? Ma non ve la faceva più, era distrutto, era quando era ragazzino che travagliava. E c'ha sempre quella fiamma sarda, quello che c'è adesso, nulla sai. La fiamma 2000 liquida, Giuseppe fa la latte dolce, algún nome. E quello che attacca la domenica, che c'è dove c'era prima il comune, là, la circoscrizione lì. Sì, in via Vespucci, brava di Blanucci. Fate Marco. E questo Antonio è una scena questo Antonio. Candurin paro rubegga. Occhio al perizoma. Sì, da sempre. E comunque messo. Come si dice? Ha fatto la mamma e la cognata ha messo. Per quanto ho capito, fanno a turno, capito? Lavorano loro, poi le consegne le stanno facendo loro. Però di tu ti pigliano a superaio. Ah, e tu perché non ti trasferisci? Sai cosa? Magari baga di più. Ragazzi, scusate, trasmissione. Bianco, per me riprendo tra un po', dai, che non sento 10 minuti. Ehi, Adani, scusa se non ti abbiamo richiamato, dai. Aveva fatto un po' di questo tra lui, dai. Scusaci. Va bene, dai, siamo qua. No, tranquillo già, so già se è entrato io senza problemi. E che stavo facendo il piano nuovo. E quindi già deve andare a fare altro, tranquillo. Dai, a dopo. E Adani, dai, ci stiamo dopo allora. Avanti, attacco. Via la gara. Adesso Marco, gatta, è indeciso, Gli avevo detto, gatta, che mettevo i soldi anch'io per prendere il PL e non mi ha risposto. Avami tocca usinami io. Quanto è che costano il PL, gatta? Quelli buoni, Amphenol, 4 euro l'uno. Io quelli che ho comprato da Fusaro gli ho fatto 4-5 spezzoni per avere il ricambio, non ne ho vinta uno. Basta venire qua, ti do le boccole io, quelle che avvitano. Che ne ho? Già, fallo una modifica, come li ho fatti io. Lo dissaldi e li metti. L'altro in barilotto li metti. Li fa la modifica proprio, capito? Vedrai che ti avvitano poi. E metti quelli come quelli che. Gianni, io mi accerto che devo cucinare, dai. No. Il barilotto lì, vedrai che ti avvitano. E vanno bene. Fai la modifica che gli ho fatto io. Allora tu, quello che non ha vita è il PL al baracchino, non ha vita al baracchino, neanche agli strumenti, è quello lì che non ha vita, con le boccole lì, sono tutte diverse, tutte che non avvitano, non vi ne è una che funziona. E tu cambiaglielo. Ciao Gianni, ciao Antonio, ciao Tore, Natale, cucici per Natalino se c'è ancora, dai. Marino, buonasera. Carino. Natalino, sì. Marino, ciao Marino. Ma tu l'hai sentito? Ma non l'ho andato via Natalino. No, cucici perché mi sono fermato per quella scala aerea che stava dicendo l'altra volta. E mi sono avvicinato che io faccio quel lavoro e gli ho chiesto, diciamo, dove c'era un affitto. 160 più IVA insieme all'uomo, allora stavo facendo, però bisogna andare al comune e chiedere sul pubblico, se no non posso venire. Ah, ecco. Vabbè, dai, già glielo facciamo sapere a Natalino, Mari, grazie. Poi se vi interessa Natalino si metterà d'accordo con quello lì e lo faranno, dai, non c'è problema. Perché prima era 800 euro, ma che cos'è, scala aerea oppure cestello? Il cestello dovrebbe essere, cestello, è quello, stesso bosco, io giù a Ottava, diciamo, dove c'è il capannone di modo convenienza, capito? Io appunto stamattina gli ho chiesto, ho detto, guarda, se compri l'uomo 160 più IVA, se sta un uomo però deve avere il patentino per questa scala 140 più IVA, però almeno che sia l'uomo che c'ha una loro, almeno è tranquillo, succede qualcosa sul problema di loro. So che vuole il foglio da comune per il suo pubblico, solo loro non possono venire, solo fanno un verbale più grande di loro. Ok, detto questo io non mi ascolto che c'ho gente qui a casa, era sopra un 15. Ci sentiamo più tardi, ciao, grazie, gli ripeteggiate. Ciao Mari, ciao. Ci sentiamo. Buonasera. Ciao Mari, ci sentiamo. Mari, dammi un controllo di radio, per favore, via Ottava, come sta arrivando il radio? La tua è sempre bella già, sempre bella forte, chiarissima. Adesso è perfetta già la tua, fortissima, bella, ciao Maria. Ascolto, c'ho gente, già io più tardi. Ciao a tutti, grazie, ciao. Ciao, ciao, è bella, questa è bella già, questa è bella, allora il microfono. Sì, questo qui è il Starlet Super Sidekick. Ma li devo mettere in un filo di massa, perché quando l'appoggio vicino al baracchino mi dà un po' di alternata, invece se lo prendo in mano non le dà. Quindi non è l'apparato, ma è il microfono. Adesso magari lo apro e controllo magari ci sia grani di polvere, delle cose, bisogna vedere cosa sia. Ma non penso che sia niente di preoccuparsi, perché lo fa a volte no. Non capisco il perché. Adesso lo controllo, se lo sta perdendo qualche elemento. Ascolta, cosa usi normalmente col gas, il saletta? K. Faccio anch'io, comunisco un microfono, non mi ha mai creato problemi a me. Fortissima la radio, molto bella. Questa è bella lo stesso, c'ha più acuti questa, eh. Quella invece c'ha i medio-bassi, molto corretti, molto bella. Però questa non dispiace. Lascia questa, già, quello la controlla però. Infatti, gli darò una controllata quando c'ho tempo. Domani mattina, magari, che non c'è nulla da fare, me la controllo. Anche è un peccato, c'è un diciamo un'azione con quel microfono, ma ripeto, questa è bella quanto è quella là, anzi ti dirò che c'ha più acuti e più penetrante, ma è molto molto forte, molto chiara. Va bene, riprende per girare che sono in quei rischi, vai a dopo. Ehi, a riprende Antonio. Sì, scappa. Eccomi. Scappa, adesso li devo fare, devo prendere un coso, un cavetto e farmi questa storia, perché non mi quadra questa storia qua che non faccia la massa, capito? Bisogna mettergli una massa per scaricare. Non metterlo nella carcassa dell'apparecchio. No, che ferrano le basi, ci vuole... Non ci sta sopra, se c'è il ripiano sale sopra l'altro apparecchio, non ci sta tu, bisogna controllarlo e basta, lo controllo l'altro, adesso vediamo, lo uso dopo, vediamo un po' come, dopo che gli metto lo spray eccetera, lo uso, vediamo un po' come va, se vedo che va bene lo continuo a usare, se no uso questo qua e buonanotte, gli faccio quella modifica. E poi così già. Gappa gappa. Sta cambiando il tempo, Antu, sta cambiando, si sente che c'è più umidità e tutto. Ieri sera si stava bene, c'era caldo, poi sono andato a fare un bel giro col cane, eravamo proprio in strada aperta e ha cominciato a fare Eva, boh, a giudizio, che c'era caldo e stava bene. No, dai, io ti devo lasciare che devo fare della roba, dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao Cianto, ci sentiamo là. A non smidere. Avanti che è rimasto sul canale 10, c'è qualcuno? Scusi, non ti vuole parlare. Buonasera. Buonasera a lei. Mi abbassi il microfono perché non capisco nulla, se no è troppo alto, mi sta assordando. E addirittura è troppo alto, adesso bene, vai, sto parlando a distanza. Diciamo che sei prepotente. Così c'erano 20 centimetri. Così va bene, fra. Oh, c'ho quel microfono, questa Delta che mi sta dando problemi, mi sta facendo uscire gracchiante, boh. Poi ho cambiato il microfono e non è il baracchino ma è sa Delta. Questo qua è il Super Sideric, come sta andando? Fra? Franco, sono uscito. Franco? Dimmi già. Muscio. Dimmi già. Ho detto, come sta uscendo questo microfono? Ma io ti ascolto bene qua. Ma forte, basso, come sta uscendo? Non fanno con le cuffie. Eh? Sarrate se fa più dentro. Come sta uscendo Franco? Guarda a vedere, guarda. Ciao, anche Tore c'è mi. Tore, andiamo per andiamo. E andiamo per proprio. Fra, se abbassi il suo microfono è meglio. Chi Franco? Cosa abbasso? Guarda, adesso è al minimo. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Abbassa il volume e risolvi. Ancora appena abbassa. Guarda un po' adesso, 1, 2, 3. Ma è fatto troppo, cosa deve operare? A un metro mi dai. Ce l'ho a 20 centimetri, capito? Ce l'ho un tiro di schioppa, Franco, però ho abbassato il volume dell'apparecchio e l'ho abbassato un po', dai. Aspetta, la abbasso ancora, ferma un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, 1, 2, 3. E già va bene. Io, Fra, come era poco fa, disturba proprio perché non si comprende, da grande forza non si comprende. Ti mangiare il baraulico, invece così si capisce bene. Vuol dire che era troppo alto. Adesso l'ho abbassato al mitigino. Guarda un po', così va bene. Bene, bene. Ciao, ciao Tore, buonasera. Buonasera, Fra. Sono fra le nuvole. Miau. Franco, ce l'hai un pezzo di carbonero? Cosa ti posso dire? Di un metro e mezzo, un metro e mezzo. R158 no? No, non cavolo, cavo elettrico, è elettrico. Elettrico, c'ho un pezzo di piattina, rossa e nera sarà un metro. No, rossa e nera ce l'ho anch'io, non la voglio nera. Perché devo fare un cavo di massa che passa dentro, diciamo, la spirale del cavo del microfono, perché come l'appoggio a fianco all'apparecchio mi fa l'alternata, invece se lo prendo in mano non me ne fa. Cavo nero, devo controllare, forse c'ho qualcosa, devo vedere. Già, io ce l'ho, però sono col Covid e no, non posso scendere neanche giù. Col Covid sì. E mi ha svegliato due che ti fa. E questa la lunedì me lo sono fatto ed ero ancora negativo. Quindi se sabato lo controllo. Speriamo che sia positivo. No, negativo, positivo. Però lo deve passare negativo. Se sei positivo virai. E come te l'hai preso questo cuore? Ai miei nipoti. L'ha svegliato dai miei nipoti. Prima che non me l'ha giù fatto, che sono andato a controllarmi, ero negativo. L'ha giù fatto lui ed ero positivo. Inverti la polarità. Cosa? Ma lei prova a invertire la polarità. Questa è la polarità. Che è davvero? È galero più forte, avanti. Cavattacco. Ciao Torino, buonasera. Allora chi sì? Il più grosso, è un brucia più grossa. Cosa vedrai? Io ce l'ho più grosso di tutti. Ciao dai, buonasera. Ah, che sei coso, Massimiliano. Massimiliano, Santiago 5 sì. Eia, Santiago 5. Da, da voi che ne intendete, io non tengo nel manco. E adesso? Adesso sei tu, ama sei tu. E allora Rubiele no che è andato a Cava Cava. Ehi, e il Santiago 5, infatti pensavo che fosse in macchina da qualche parte. No, non ero in macchina, già non ero in macchina. Lui? Ma è andato questa radio, perché era da un bel tempo senza usarla. Sì, già va bene, adesso va bene, ma prima eri in basso di Santiago. È troppo basso per essere tu. Ok, là, l'ho aumentato anche un pelino di Mickey Game, vedi un po'? Dimmi tutto Massimiliano. Ciao a tu, K, dai. Sì, quasi. Pensa che io sono lontano, va. Ma sì, 9-10, Massimiliano. Ma baciami le volte, cazzo, ma cosa... come mai c'è così? Ah, se ne sono qui, a me lo dico. Ti sciuga, 9-25, le fa scendere tutte, no? Stai calmo. Ma cosa, no, è con questa terra di gomma, arriva 9-25. Mi sembra strano, Okay. Sento attaccato, Franco, sento attaccato, stacca lineare. Sato sei tu, sei pisato, come è che sta bomba, amico, quasi ti intende. Così può fare un bel potente, sta attento un bel nome. Non ne posso fare potente, va. Guarda che io sto scendo, non ci pervati con l'orati, capito? Buongiorno. Guarda, io poi non va che tu scendi invece. Io sono mezzo a fare. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Avanti il primo, poi il secondo. Sono tornato, Tutto a posto. Gava, gava, gava, gava. Ok, Daniele, dai, va bene così. Fa una prova così volante per vedere se risolvo col cavo, con l'alternata, se no se vedo che lo risolvo gli metto un cavo come si deve e gli faccio una cosa ben fatta. Mi hanno detto che qualcuno è stato l'annotato. Cosa ti hanno detto? Che qualcuno? E la sarei tu quel qualcuno? Aspetta, c'è una bassa, oggi me la sono in faccia. E io vai a abbassarti, cava di gaba. Chi è il questo qua? Hai dato le sciuma. Frank, chi te mi conta? Sì, capo, mi ero in campagna, sono salito poco fa, stavo facendo una cosa, stavo tagliando un po' l'erba, ma poi ha cominciato a piovere e ho mollato tutto. E la tagli erba, tanto cresci d'ora, fai tagliando e crescendo, aspetta un po' che si stabilisca il tempo. Ma infatti adesso non è taglio altro, lascio stare. Se da quando non migliora il tempo non faccio niente, capito? Cosa ne prendi? Tagliando l'albero. Buonasera, no, stavo tagliando l'erba, capito? Buonasera. Ma mi ascolti, sì? Sì, si sta a posto, Dimmi, pure io l'altro giorno la stavo tagliando. Ma non è taglio, adesso perché tanto comincia a piovere ed è un casino. Capito? Lascio così. Riprendi Natalino, buonasera. Buonasera. Tanto che studi, adesso scendo e me la fumo quell'erba. Lui è partito. Ma sta farà Natalino? Oramai sta già fiorendo. Allora che studi, ce la fumiamo quell'erba. Natalino si fuma anche i semi. Tutto vinci tu. Si fuma anche i semi Natalino. Capito? E quindi va bene. Si può fumare anche dopo che fiorisce, c'è il seme, si può fumare il seme. Attenzione, attenzione, sul canale 10 l'Italia, Nord e Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Break over. Attenzione, canale 10, l'Italia, Nord e Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Brico. Dai ragazzi, io vi saluto, dai. Buona serata, buona continuazione e alle prossime, dai. Ciao. Ciao, dammi un controllo prima di andartene, ho bulldozer, fammi la cortesia. Santiago 2, Radio 2. Basta venire qua e non sentire splatter. Non so, ma questa gentaglia che c'è, madonna. E tu dove sei? Che canale sei? Stavo guardando che è questo che sta arrivando di basso, insomma, come va? La propagazione che tu forse deve fare, dai, sentiamo. Ah, c'è un canale cambio. Stai qua, che non c'è problema, non è più forte di te, già stai arrivando bene. C'è la propagazione che tu forse di me. Vabbè. Avere il canone cambio. E te show my friend. Italy from Sardinia. Libero, linea occupata. Parito, torna. Eia. Uno viene avanti, dai, cosa ci racconti di bello? Dove sei, Ginella? Gianni, diglielo, linea occupata. Ti ha salutato, mi ha detto buongiorno, ti ha detto. Ascolti Italia, Nord e Sardegna. Attention, my friend, ascolti Italy, Italy from Sardinia. Hai sentito, avanti. Ciao Gianni, saluto. Tanto lei cosa può essere? Il Saletta mi sta rompendo le scatole, mi sta facendo uscire gracchiante con la radio tipo satura. Cosa può essere? Io ti sento bene adesso, ma se stai uscendo con quello stai uscendo bene. No, sto uscendo con il Super Sidekick adesso, con il Turner più 3. Attacca quello e mi fai sentire come esci. Ma mi hanno detto che mi fa uscire gracchiante, E no, ma io lo sapevo, ma ce lo devo usare, no? Si ammazza, si ammazza, si ammazza, sono ammazzato. Il cambiamento di tempo fa arrivare tutti qua. Ehi, vabbè, preparazione di Bertola, già lo sai. Aspetta qua, se vogliamo come esce Gianni. Beh, detto ciò, dai, io vi saluto, spengo le trasmissioni, magari ci sentiamo a casa più tardi, ok? Ciao a tutti. Ciao, a dopo. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ciao, ciao. Guarda lì, adesso sono con il Sciadetto. Sto scendendo bene. Sei chiaro, perfetto. È a posto. Non ho capito che ti abbia detto che stai scendendo male. Guarda, magari lo fa momenti, non lo so. Adesso io ho aumentato come radio, dai, vediamo un pochettino se aumentando da problemi. È a posto, perfetta. Non li tappi un bacio, come scatola, adesso lo lascio un pochettino attaccato, vediamo un pochettino. Dice che satura, la radio gracchiante, satura. È come se avessi qualcosa attaccato, ma non c'è nulla attaccato, capito? Adesso no. Adesso non lo sto facendo, ma... No. Allora, io lo sento più quando tu stai meno amplificato e quando stai distante dal mic, sai quando ti corichi, no? E io non lo so se è l'effetto della distanza, comunque non è pulitissima. Adesso invece è una bomba. Che lo ti dica, mi pare di ricordare che anche Tino ti sentiva bene, gli altri notavano questa leggerissima saturazione e Tino ti sentiva bene invece, mi pare di ricordare fosse lui, sì. Vediamo se c'è l'appello, Tino ci sei, ascolta. Mi sembra che quello era ieri o mantino, una cosa del genere. Ehi, guarda, io adesso lo lascio un po' attaccato e vediamo come va. Perché è strano, questo che andava sempre bene, che non siano i cursori che ci si affolvere, Oli. Scusa, per il CRC, qual è il problema? Rimane a posto il microfono, si mazzano. Il Saletta si è portato il miglior microfono che esiste, la verità. A parte l'MB più 4 e quello più 5, non lo so, ma comunque sia, esce bene. No, l'MB più 4 e l'MB più 5 non si possono paragonare a Saletta, Saletta è molto migliore. C'ha tutti i bassi, i midi, gli acuti, eccetera. È molto bello come microfono, capito? E mi dispiacerebbe perché è un microfono che ho sempre tenuto bene, adesso bisogna già controllarlo e vedere un po', adesso vi spruzzo un po' di spray per contatti e vediamo come va. E all'altro vi devo fare un discorsetto, vi devo mettere un cavo di massa perché come l'appoggio vicino all'apparecchio esce con una leggera alternata e invece se lo prendo in mano non esce più. Allora, aspetta, la baracchina, qual è il problema? Non cambia niente, scusa. Vabbè, comunque stai uscendo bene adesso, sei perfetto. Adesso vediamo, speriamo bene. E comunque un po' di spazio lo spazio lo stesso nel cursore. Comunque ricordati già che anche quando è presente con la lieve saturazione te lo fa, però quando esci basso di radio, quando sei distante, magari è anche la, come dire, certi microfoni rendono in modo diverso in base alla distanza, ci hanno delle timbriche strane, in certi mi avvicinavo sotto una certa distanza, se usciva metallico, te riallontanavi usciva meglio. È trascurabile mi già, cioè se non attacchi l'orecchio alla radio non è che si nota così tanto quando lo fa. Quello, la giuma mi negaci il piatto, dai che sto mangiando. Ehi Amaro, come dici tu, perché io modulo sempre più sdraiato, quindi sempre nella stessa posizione modulo, come stavo modulando stasera, modulavo anche le altre volte, quindi non è quello. Magari è l'effetto che fa te, pensando che io mi allontani, si abbassa la radio, si abbassa la radio e fa quel difetto lì, mi capisci? Non è, perché io ho sempre modulato così, sdraiato, dico il microfono, allora l'ho messo apposta a quel camera da letto, proprio per avere la comodità di sdraiarmi quando sono stanco, mi sdraio e mi rilasso. Sì, però adesso stai uscendo forte e pompato di radio, mentre altre volte ti si sente quasi a malapena, forse parli piano tu oppure c'è una persona addormentata lì e magari non la vuoi disturbare, capito? Poi sei molto forte in radio. Quello c'è, cioè, possibile, a volte per non disturbare parlo a voce più bassa, ma in ogni caso guarda che questo microfono mi ha sempre dato delle buone soddisfazioni. Sì, il Saletta è eccellente, io l'ho sentito quando usava il padre Antonello e tanti altri, è limpido, il Saletta è veramente limpido. Eia, stavo guardando i prezzi degli Amphenol, allora Amphenol PL lungo per 213, 4 euro da Mediaglobe, però è Amphenol, solo che... Sapete cos'è? Non so se c'è Natalino ancora da scuola. Gli Amphenol sono sprecati per fare gli spezzoni. Quello lo puoi mettere alla base dell'antenna, no? Quando al fine dell'antenna, e quello che va al baracchino al limite. Per gli spezzoni vanno bene anche quelli normali in bacchelizze. Bisogna vedere se sono buoni o se sono gli spezzoni in maggio. È quello che io ti volevo dire. Li volevo Amphenol perché io devo fare 3 discese, 3 o 4. È entrato Marino poco fa, ti stava cercando, ha detto che ha parlato con quelli della scala aerea e vogliono 160 euro con l'uovo, però bisogna fare il permesso in comune. Te l'ho detto che bisognava fare il permesso in comune, se no non ci vengo, ma già lo so. Ma 160 euro è abbordabile, non è che c'è una cifra esorbitata. Ma io mi devo mettere le staffe, no, non la lascio così, no, gli metto le staffe in modo che ne l'accendo fino a terra e ne l'accendo da solo, capito? Io ho il palo telescopico grosso e praticamente ne l'accendo da solo l'antenna, non devo chiedere più niente a nessuno quando me l'accendo adesso. Mi piazzo queste staffe grosse che ho qua e la faccio in un altro modo. Ma la staffa per piazzare ci vuole qualche cosa per portarti su, no? E con la scala le piazzo. Invece di mettergli i tasselli, gli metto qui i tirafondi con la barra filettata, mi va la prima rubalata. Natali, ma non ti fidate a Natali Scala. È un momento, va, non per farlo bindaccio, però già lo sai che non è molto per la quale. Vabbè, vedi tu, là. Io te l'ho detto, Marino si è informato, quello che c'è a Ottava, e gli ha detto così, 160 più IVA con l'uomo, 140 senza uomo, ma devi avere la patente, il patentino per guidare con la barata. Io ho la patente per guidare il camion, il patente per guidare la cosa, no? Ci vuole la patente per la gru. Vabbè, ma non va bene, cosa vedo? Quella lì è una patente a parte, è come quella per il muletto, che c'è il patentino per guidare il muletto, bisogna fare patentina adesso. Non c'entra nulla con quella là, Natalia. Lo so, ci vuole il patentino per la gru, se no non la puoi utilizzare. No, va bene, là. E dobbiamo, io e un amico dobbiamo farla in un modo diverso l'antenna, perché non va piazzata solo quella, ne devo piazzare altre due più il dipolo 3, 4 sono le antenne praticamente. Ma per il momento ti puoi mettere quella, di modo che ci vengo questa frequenza, dopo ti attacchi le altre. Cosa mi la fare? Un'altra volta? Quando posso tutto? Usci allora. E allora, il dipolo poi c'ho la carrucola per il sale e scendi e lo salgo da terra, capito? Sì, ho capito. Lì va. Attacchiamo tutti 50 antenne, cazzo. Mi servono solo due pezzi di tubo da 20 cm da 40 mm che devo farmi le cariche per il dipolo, se non è troppo lungo e non va bene, così accorcio il dipolo. Ma tu vuoi plastica però? Ehi, PVC. Oh, ragazzi. Pensavo di fare caso con quello che si è pigliato due casse di stereo, ha fatto una bobina, anzi non ha fatto una bobina, ne ha fatto due e si è lasciato a 2,20 in casa. Quindi figurati tu, c'è la luce gratis. Io le bobine le devo fare per accorciare il dipolo, sono due trappole che devo fare praticamente. Sì, già ti ho capito. Il problema è salire sopra, non è che puoi dire ehi, piatto questo, piatto quest'altro. Il discorso è quello lì. Non sei in un quadrato grande grande di hai capito? Quindi non puoi piazzare tutte queste cose che pensi tu, uia! A quando stai con le cose lì, uia! Ce ne vuole la roba, da lì, ce ne vuole. C'è che posso tirare per la 27 adesso, poi pensare a resto piano piano. Non lo puoi fare tutto in un giorno, no. Sempre se te lo fanno fare, io lo sai che lì la prima cosa che fanno ti chiamano i vigili urbani, i carabinieri, cose del genere, quindi ti rompono le balle e non ti fanno installare un tubo, il discorso è quello lì, è la zona di merda lì, hai capito? Purtroppo è così, non ci puoi fare niente. Ho il fucile a pompa io, capito? Chiunque si avvicina lo ammazzo, molto ci vuole. Oh io con fucile a pompa, guarda. Se ragioni così non fai proprio niente. Devi stare tranquillo, camo. Vai a... Cazzo, è come Putin con Zelensky, tale uguale, dice. Uno c'ha quello, l'altro c'ha l'altro, a un certo punto dovete mettervi d'accordo, il discorso è quello lì. Ah, io sono d'accordo, comando io e basta, non lo sai. Cazzo, se te lo sto dicendo, ne devo fare a tutto. E te lo salgo da terra, quindi è facilissimo a fare. Prima mi piatto le strappe e poi ne scendo l'antenna. Una volta che ne scesa in terra l'antenna posso intrumiare i miei piatti. Devo mettere due bracci, così sono tre le antenne, più il dipolo che lo salgo da terra una volta che è piazzata l'antenna. Il dipolo ce lo salgo con l'alta bandiera. Ehi, già ho capito. Io stavo parlando, appunto, di avere tutto quel palo che c'hai adesso. Il palo lo mettere sopra, una volta che sei sopra installi quello che ti pare ti piace, solo per i 6 metri e tu sei a posto, piace di poli, piace di andare VHF, quello che vuoi, quello ti stavo dicendo una volta che sei sopra. Oh ya, c'ho già tutto pronto, non hai capito? C'ho tutto pronto. Allora sei a posto, devi solamente aspettare il momento opportuno che cambia, non è che possa esserci stasera, tanto per dire, ma a maggio, fino a aprile, inizio di maggio, sali sopra al tetto, installi tutto, come ti ho detto io, piazzi le gaffe espansione con un trapo, immediatamente, prendi, installi il palo, e ci installi quello che cazzo vuoi tu, il discorso è quello lì, come ti ho sempre detto io. E tutto quel palo che c'è arrivato nella facciata, quello lo scendi giù, ne stacchi le staffe e te le porti a casa. Ma ci sali tu e ci devi riuscire a salirci sul tetto. Non la vedi, non si può entrare su quel tetto. Se no l'avrei già fatto 2000 volte. Vabbè, si chiederà qualcuno. Lì vicino ci sarà qualcuno che sono quel tetto lì, nel lato tetto, non lo so. Ma sa chiedere, non costa niente a chiedere. nuovo, e dopo tu al limite prendi in sala, arriva a fanculo, a un certo punto passi i capi alla, forse se è da quella parte lì passi dall'altra facciata, allora vuoi dire carina. Non si può salire sul tetto, non hai capito che non c'è passaggio per poter salire sul tetto, se no l'avrei già piazzata, no? Va bene, ho capito. D'accordo, devo dire che io ho la possibilità di altre cose. Ma le altre antenne piazzate da quella televisione, quanti anni fa? L'antenna dalla televisione non si può piazzare su quel tetto, perché non si può salire su quel tetto. Non c'è passaggio per salire, cazzo, non la vuoi dire comprendino si può fare. L'antenna del televisore ce l'ho nell'altro palazzo io. Ebbene, non si può chiedere a me se tu non salire. Ci mi hanno denunciato, a giumare, ma arresciami. Cazzo, allora non hai capito. No, non è che non ho capito, non lo sapevo. E che te lo sto dicendo che mi hanno denunciato a me. Vabbè, vedi tu, un giorno che ce l'ho pure lo fa. E appena passo al sole, bisogna farlo. Quando fa tempo bello, mi piazzo le staffe e prima ce la salgo da terra l'antenna. E non c'è problema. Capito? E così non devo chiedere niente a nessuno. C'era Franco Califone, a Franco ci sei. E anche Bruno. Bruno è sparito. Tutti scappati sono. In uno studentato di via Rodrigo Berto. Tutti fuggiti sono da lì. Magari fosse facile, se no non aveva tutti a tre curino. Studenti delle belle. Non è così facile come pensate voi, non ce n'è il passaggio. L'hanno chiuso il passaggio per il tempo. Guarda, facciamo una cosa, guarda. Se faccio il bingo supera la 8, e vedi qui abitati, va bene. Dove noi siamo di quella casa? Ma io volendo la casa ce l'ho, se io me ne salgo in campagna, c'ho tutto pronto, addirittura. C'ho la multibanda, cazzo, sopra un palo da 10 metri. La manta fa 5 se ne sta ridendo sul coso, su un palo da 12 metri. C'ho tutto pronto, volendo. Se io me ne salgo in campagna, c'ho la casa e c'ho tutto. E chi non vi voglia sta io. Quello è infatti che ti ho detto. Se io avevo vita sopra la lotto, sta tranquillo che quello avrei mollato, mi sarei andato su dove c'è l'alberghiero, da quella parte lì, mi sei avviato una villetta, qua me l'avrei affittato e tu sei venuto qui a abitare. Noi ti avessi portato tua moglie di qua e lì l'avessi lasciato perdere immediatamente. Allora non avessi avuto nessun problema di installare le antenne, non avessi bicicletto con nessuno, eccetera eccetera. E avessi messo delle antenne VHF, VU, la Mantova, quello che era lì, come ti posso dire, il citofono sopra, l'altoparlante, come si faceva una volta, cazzo, nei paesi a vendere cazzo la roba. Allora, quello che dico io, è capito, va bene. Non c'è mai chiarissimo, tra oiui, ma te lo compareggi il tiro dopo. Ma da lì, ti sto dicendo, aspetta la bella giornata, se la una ora è entrato tutto in terra. Non ha ancora compreso, dici? No, ho compreso io. Dai, amore, non so te lo faccio fare a tutti. Cosa devo fare secondo te? Adesso gioco il numero sopra l'otto, oppure all'otto se vinco, cambio casa e gli affitto la casa alla Tarina. Allora se vieni qui a abitare non rompe più le balle, a Tarina. Almeno cazzo si piazza le antenne che vuole, tranquillo, se si piazza di 6, 7, 8, quello che vuole si piazza le antenne, cazzo. Basta che mi paga l'affitto non ne frega niente a me. Ma tu lo sai come si chiama il paradiso? Per non romperti le balle. Il paradiso si chiama campagna, in campagna non ti rompe le balle nessuno. In campagna, ohia, c'è una macchina. Vabbè, lui la macchina ce l'ha, grazie a Dio. Io la macchina non ce l'ho. Quindi anche il paradiso a me mi viene. A me mi viene un incubo. perché se deve in campagna ti voglio vedere con la spesa. Uiaia. Vabbè, ma in campagna va bene, capito, perché non ti rompe le scatole nessuno. Invece in città è diverso. Vabbè, ma Monte Bianchino qua, cioè Monte Bianchino, dove c'è l'alberghiero lì, ci sono le villette, lì andrebbe bene la tenere, sai che cosa? Una bella mantova, una bella bibanda, cosa del genere, sarebbe stato un re della foresta, sarebbe stato, perché sarebbe stato in alto. Oh Gianca, io sono più in alto di Monte Bianchino a Filighigi, ma lo sai tu. Franco, me fra, ci sei, sì, sparito. Tutti spariti sono. Ma io ho già cenato, gira gira, me la chiudo e mi guardo il televisore. Tanto sono andato a vedere se c'era propagazione, non vi ne. Che ti ha cenato? Sono 7:30, so. Ma io sono diabetico, caro lì. E devo mangiare a quell'ora, se no dopo mi tocca farmi l'iniezione della notte, è troppo tardi. E allora ho già cenato per quello. Ah, vabbè, ok, là. Non c'è problema. Ok, adesso io preparo la cena, Simona, tanto lei c'era alle 8, quindi non mi sono manco accorto, sono abituato all'orario vecchio, però con la mia nuovo assicurare degli orari vecchi, capito? Cioè, la vecchia nuova, quindi a un certo punto. Ma cosa sapevo che erano 7:30, figurati. Vabbè, sentiamo dopo là, ok. Ciao Antonè, sono le 8:20. Ho capito, va bene, va bene. Ieri mi ha aspettato l'amica che era Zoppas, dice stavo a farmi la spesa, dice dopo, dice mi era la mano a mettere l'acqua a casa, è entrata dentro cazzo, alle 7:15, 7:20, 7:30 cazzo, alle 8:15 è uscita con un tipo, uscita e si è riempito cazzo la macchina, ha detto vai a fanculo cazzo, tra me, io come un coglione aspettando cazzo, a base della biglia, in cosa della biglia e passavano i vesti. Cosa succede? Ho aspettato a lei per dargli una mano, non per altro. La verità, ma mettere la cassa dell'acqua, quello dei litri, l'ha piatto per casse, mettere nel cofano. Cazzo, allora girare la parte all'altra, destra, sinistra, sinistra, sinistra. Cazzo, tu sei già alle 7:20, cazzo, devo pigliarmi il cane. Ma ce la faccio a aspettare a lei? A giugno di me sono andato. Ma tu vai, via. Vabbè, là. Tanto tutti sono andati e me ne vado anche io in quelli, ci sentiamo alle prossime, da ciao Antone. Ok, ciao Natale, ci sentiamo a dopo, da ciao ciao. Hola 1 2 3 prova, oh 1 2 3 prova, attenzione canale 2. Thank you. più basso. Via. Dottore. Chi è? Io. Come va lì? Luca. Ah, dottore, stavo confondendo. Beh, come andiamo? Sì. Come andiamo? Come sempre. Vabbè, dai, vado a peggio. Va lì. Qui ad Augusti. Mi sta aspettando... Si aspettano che entri Antonio. Aspetta un attimo, mi sto prendendo gli occhiali. Che non bevo una mazza, non vuoi. Papà Buglio sta aspettando, va. Coca-Cola, Coca-Cola. E stasera c'è la Bombolino. Ebbene, dentista a che punto sei? Domani ce l'ho, Mario, alle 11. Devo fare un'altra